Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Cassazione al referendum sul nucleare che resta valido anche dopo l'intervento del governo. Di Pietro, nessuno può aggirare la legge. Calcio, scommesse, arrestato signori, indagati Bettarini e Doni, davano calmanti ai giocatori per abbassarne le prestazioni, falsati campionati di B e C, ancora in corso. La verifica di governo in Senato sarà fra il 20 e il 27 giugno, intanto la Camera stop bipartisan alle ganasce fiscali. I cellulari aumentano il rischio cancro, il ministro della Salute Fazio chiede un parere al Consiglio Superiore di Sanità. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Il referendum sul nucleare si farà, lo ha deciso questa mattina la Cassazione. Tutti i particolari fra poco, perché ora invece parliamo di calcio, purtroppo non di calcio giocato, ma di un'inchiesta che ha portato alla luce una bruttissima storia di scommesse che vede coinvolti personaggi molto noti del mondo del calcio. Poco fa una dichiarazione di signori all'ANSA: non avete pietà in questa situazione, abbiate pietà. Io non posso dire nulla, incontrerò il mio legale a breve, ma per fare il punto qui accanto a me Dario Ricci. Sì, buongiorno. Allora, 16 persone, tra cui ex giocatori di Serie A, come sentivamo, calciatori di Serie B e Lega Pro, ancora in attività e dirigenti di società di Lega Pro, sono stati arrestati dalla polizia questa mattina a conclusione di un'indagine sul calcio scommesse condotta dalla squadra mobile di Cremona e coordinata dal servizio centrale operativo. Perché questa indagine è partita da Cremona, Piera? Perché, secondo il capo della mobile di Cremona, Sergio Lopresti, nel novembre del 2010 sei giocatori della Cremonese sarebbero stati intossicati a causa dell'assunzione di alcune bevande e per gli inquirenti il fatto sarebbe stato intenzionale. Si voleva modificare infatti il risultato della partita Cremonese-Paganese. Da qui l'indagine si è estesa fino a coinvolgere nomi illustri del nostro calcio. Ricordavamo Beppe Signori, l'ex capitano della Lazio e attaccante della nazionale, poi altri volti noti: Stefano Bettarini, l'ex marito della conduttrice TV Simona Ventura, che già nel 2004 era stato condannato per aver truccato delle partite, poi Mauro Bressan, ex calciatore della Fiorentina, e poi Doni, bandiera e capitano dell'Atalanta. Un'indagine estesa che coinvolge diverse città: Bari, Como, Bologna, Rimini, Pescara, Ancona, Ascoli, Ravenna, Benevento, Roma, Torino, Napoli e Ferrara. Allora sentiamo subito Roberto De Martino, il procuratore capo di Cremona, sulle partite e sulle società coinvolte. Partite di calcio che interessano prevalentemente nella nostra indagine la Lega Pro. Però ci sono, mi pare, 5, adesso non mi ricordo, partite della Serie B e una partita della Serie A. Il problema è che le partite della Serie B interessano anche l'Atalanta e una il Siena, per cui sono squadre promosse in Serie A, quindi il problema diventa anche piuttosto preoccupante. Un eufemismo quello usato dal procuratore De Martino, perché chiaramente Atalanta e Siena appena promosse può sicuramente essere rimesso in dubbio l'esito sportivo del ottenuto sul campo, ma fra poco ne riparliamo con un altro interlocutore. Sentiamo ancora De Martino sullo schema seguito dall'organizzazione, da quella che ha definito una vera e propria organizzazione criminale. Questa è una specie di industria, le cose funzionano così. Beh, innanzitutto non è tutto nero, qui non sono scommesse clandestine, sono scommesse normali, con tutti, ci sono molte scommesse per esempio sui mercati, sui siti asiatici per esempio, perché che cosa succede? Che quando si scommette troppo in maniera strana su una partita e non si capisce perché ci siano tante scommesse, le scommesse vengono sospese, quindi molto spesso queste persone scommettevano fuori dall'Italia. E allora, dicevamo, tra le leghe più colpite la Lega Pro, l'ex Serie C, e allora abbiamo intervistato il presidente della Lega Pro, Mario Macalli. Di sbandamento e di voglia di mollare tutto. Questa è la prima reazione che uno viene in mente. il calcio deve essere dato in mano ancora dalla gente per bene, punto e basta. La Lega Pro si costituirà parte civile? Già fatto stamattina con l'avvocato Salvatore Catalano, già fatto. Pensa che questa inchiesta possa rimettere in discussione i risultati ottenuti sul campo? Io non lo so, certamente se c'è qualcosa che avranno scoperto, sicuramente altro che mettere in discussione qua, si deve mettere in discussione tutto. E grazie al nostro Dario Ricci. Ombre invece anche sull'ormai imminente rielezione di Josef Blatter a capo della FIFA, qui accanto a me Carlo Genta. Ciao Piera, buongiorno a tutti. Sì, non è un grande momento questo, al di là del calcio, no, direi proprio no. Non è giornata. Ma sai, questo periodo si rovescia per strada tutta la patumiera del calcio, ne abbiamo qualche esperienza dal 2006. Intanto oggi, mentre gli inquirenti qui in Italia lavorano, Blatter verrà eletto, a meno di colpi di scena impronosticabili naturalmente, sui quali magari si può anche scommettere, verrà rieletto alla guida della FIFA. È stato disinnescato, come ben sappiamo, Bin Ammann, che era l'unico competitor che c'era. C'è stato questo scandalo di presunta corruzione di Bin Ammann, che oggi, ed è appunto una delle poche notizie di oggi, qui è stato negato l'accesso al congresso della FIFA, quindi non potrà partecipare a questa votazione. Blatter, unico candidato, tra l'altro pochi istanti fa è stato approvato anche, tra gli applausi, il bilancio della FIFA degli ultimi anni e il bilancio preventivo per il 2012, quindi sembra oggi tutti fintamente contenti. Poi vediamo cosa succede. Blatter ha già annunciato qualche novità, ma possiamo fidarci sempre fino a un certo punto. Di fatto oggi pomeriggio verrà rieletto, Piera. Va bene, allora staremo a vedere se tutto andrà come previsto. Grazie a Carlo Genta. E siamo invece alla pagina politica, a partire dalla decisione della Cassazione sul referendum. Si terrà regolarmente il 12 e 13 giugno prossimi il referendum su nucleare. Lo ha deciso a maggioranza l'Ufficio Centrale Elettorale della Cassazione, che ha accolto l'istanza dei legali del Partito Democratico di trasferire i quesiti referendari sulle nuove norme contenute nel DL Omnibus, diventato legge pochi giorni fa. La richiesta di abrogazione rimane quindi la stessa, ma si applicherà alle nuove norme sulla realizzazione di centrali per la produzione di energia nucleare contenute nell'articolo 5, commi 1 e 8 del decreto legge Omnibus. I cittadini dovranno decidere se votare a favore o contro la realizzazione delle centrali. Il via libera della Cassazione restituisce ai cittadini il diritto al voto che il governo aveva tentato di scippare, ha commentato la presidente dell'Assemblea del PD, Rosy Bindi, mentre per il presidente di Ecologia e Libertà, Nichi Vendola, la decisione della Suprema Corte è un atto di rispetto nei confronti degli elettori. Domenico Lusi, da Radio Cor, per Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma. Grazie dunque a Lusi. Chi la dura la vince, invece, il commento del leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro. Dal primo momento abbiamo creduto che la legge è legge, nessuno la può aggirare, neanche questo Parlamento, che ha proposto e votato una legge truffaldina. Una risoluzione approvata con voto bipartisan dalla Commissione Finanze della Camera prevede lo stop alle cosiddette ganasce fiscali, cioè le riscossioni coattive verso quegli imprenditori che per difficoltà economiche temporanee sono morosi verso Equitalia e gli altri enti di riscossione. Il documento chiede anche di togliere ad Equitalia la riscossione delle multe e riportarle in capo ai comuni. Il testo potrebbe diventare un emendamento al decreto sviluppo. E la verifica di governo in Senato sarà fra il 20 e il 27 giugno. Ci colleghiamo in diretta con Elisabetta Fiorito. Sì, buongiorno. Attesa intanto per il vertice del PDL di questo pomeriggio, si va verso la nomina al segretario politico di Angelino Alfano, la scelta ieri notte in una cena con il presidente del Senato Renato Schifani, mantenendo in carica gli attuali tre coordinatori. Sarebbe questa la novità promessa da Silvio Berlusconi, e in questo momento a Palazzo Grazioli si lavora già ad un summit con Denis Verdini e Ignazio La Russa, che quindi non verranno esautorati e verranno anche congelate le dimissioni di Sandro Bondi. Alla nomina Angelino Alfano, ormai da tutti considerato il delfino di Berlusconi, lascerà l'incarico di ministro della giustizia. In questi momenti per la sostituzione si fanno i nomi di Maurizio Lupi e di Fabrizio Cicchitto, ma c'è anche chi parla dell'ex finiano Andrea Ronchi. Non ho nessuna intenzione di fare il ministro, ribatte poi Cicchitto, che preferisce rimanere a fare il capogruppo PDL alla Camera. La verifica, come avete detto detto voi, a fine mese, magari con un mini rimpasto, ma la Lega è cauta. Umberto Bossi ha detto che il governo va avanti, ma di non essere completamente tranquillo. E gli scontri tra Berlusconi e Tremonti, uomo dell'asse tra Lega e PDL, malgrado le smentite in tarda serata del Premier, non facilitano certo il rapporto con gli alleati leghisti. Dopo la sconfitta di Milano, la nomina di Alfano a segretario poi sposterebbe l'asse PDL più al sud che al nord. E per il momento qui da Roma è tutto per studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. E Giuliano Pisapia si insedia oggi come nuovo sindaco di Milano. Il passaggio di consegne fra il vincitore e l'uscente Letizia Moratti avverrà a Palazzo Marino alle 16. In un'intervista al Corriere della Sera, il nuovo sindaco ha annunciato l'intenzione di confermare piste ciclabili, agevolazioni sui mezzi pubblici agli over 65, recuperando risorse grazie al taglio degli sprechi a partire dalle consulenze. No anche ai doppi incarichi. Domani Pisapia indosserà la fascia tricolore nella sua prima uscita ufficiale per la Festa della Repubblica. Entro 15 giorni probabile annuncio della nuova giunta, mentre il primo consiglio comunale sarà convocato entro 20 giorni. E si lavora la nuova giunta anche a Napoli. Il neo sindaco Luigi De Magistris questa mattina al microfono di Alessandro Milan. Ho preso l'impegno di una giunta da fare subito e da proclamare lunedì, non prossimo, quell'altro. Quindi dieci giorni. Ci sarà la giunta, ovviamente, compreso il vice sindaco. Ma non ha neanche, non so, mi dica metà donne, per esempio Pisapia no, dice metà donne. Il profilo del vice sindaco, sto l'idea lavorando profilo. Vice sindaco donna. E giovane, diciamo, ho detto che nella giunta metterò molte donne, vediamo se riusciamo ad arrivare al 50%. E anche dei giovani sicuramente, un profilo è questo, persone comunque oneste, competenti, credibili e coraggiose, perché la rottura di un sistema comporta anche coraggio. Non è come Milano, dove c'era Pisapia, il candidato del centro-sinistra, Moratti centrodestra. A Napoli siamo andati oltre questo schema, io non sono stato il candidato di una parte del centro-sinistra, seppur appoggiato dai DV e Federazione della Sinistra. Il messaggio è stato molto chiaro, sia alternativa al candidato di un certo centrodestra come era Gianni Lettieri, ma anche alternativa al candidato di Bassolino. Ma anche l'idea di un ruolo per Saviano, no, non ci ha pensato, sarebbe impensabile. Voglio parlare con Saviano, credo che lui non debba mai essere tirato per la giacchetta, io vorrei solo che lui si senta protagonista di questa rinascita napoletana, perché è una persona che ha dato tanto a Napoli, e non solo a Napoli ovviamente, e quindi lo vorrei, ma senza appunto quello che lui intende fare. Le porte aperte per persone come lui e altri ci saranno sempre con la mia amministrazione. Andiamo all'estero. La NATO ha deciso di prolungare per altri 90 giorni la missione militare in Libia. Con questa decisione la NATO e i suoi partner inviano un chiaro messaggio al colonnello Gheddafi, ha dichiarato il segretario generale della NATO Rasmussen. E la Guardia di Finanza ha sequestrato a Lampedusa un grande yacht, risultato di proprietà dell'ex presidente tunisino Ben Ali, in esilio in Arabia Saudita dallo scorso mese di gennaio. Questo invece accade in Yemen. Almeno 37 persone hanno perso la vita in scontri scoppiati nella notte a Sana'a fra forze governative e sostenitori di un capo tribù. E in Iran un attivista antiregime muore nei tafferugli scoppiati con le forze di sicurezza durante i funerali del padre, un noto oppositore. Prima notte in cella per Ratko Mladic nel centro di detenzione del Tribunale Penale Internazionale dell'AIA, dove è stato trasferito ieri sera. Venerdì la sua prima apparizione davanti ai giudici del Tribunale Penale, che accusano il governo serbo. Ratko Mladic poteva essere arrestato prima e 16 anni di attesa sono un periodo troppo lungo per la giustizia. Ieri sera alle 22.30 per Ratko Mladic si è aperto il cancello d'acciaio del carcere di Scheveningen e per i sopravvissuti ai crimini commessi dall'ex generale serbo in Bosnia dal 92 al 95 la sua incarcerazione è stato un primo atto di giustizia. A giorni Mladic dovrà comparire davanti alla Corte del Tribunale Internazionale per i crimini commessi nell'ex Jugoslavia, ma si tratterà solo di un'udienza preliminare. Per l'avvio del processo saranno necessari alcuni mesi e non è escluso che possa essere unificato a quello in corso da più di 2 anni contro Radovan Karadzic, suo complice negli anni della mattanza contro i bosniaci musulmani. Elnara Guslin, Radio 24, il Sole 24 Ore. sì della Cassazione al referendum sul nucleare che resta valido anche dopo l'intervento del governo. Di Pietro, nessuno può aggirare la legge. Calcio, scommesse, arrestato signori, indagati Bettarini e Doni. Venivano dati anche calmanti ai giocatori per abbassarne le prestazioni. Falsati campionati di B e C ancora in corso. La verifica di governo in Senato sarà fra il 20 e il 27 giugno. Intanto alla Camera stop bipartisan alle ganasce fiscali. E ripartiamo dall'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sul rischio cancro derivante dall'uso dei cellulari. Il ministro della Salute Ferruccio Fazio chiederà al Consiglio Superiore di Sanità un parere sui rischi legati appunto all'uso dei telefonini cellulari. Sentiamo Susanna Lagorio dell'Istituto Superiore di Sanità e responsabile scientifico per l'Italia dello studio Interphone al microfono di Romolo Napolitano. Le radiofrequenze sono utilizzate per la telefonia cellulare, ma anche per le trasmissioni radiotelevisive, per molte applicazioni mediche e industriali. Per quanto riguarda i telefoni cellulari, sono la sorgente di esposizione all'uomo che dà dei livelli più intensi di esposizione, ed è per questo motivo che sono stati più studiati. Lei nei suoi studi a quali conclusioni è arrivata? Le conclusioni sono quelle che esiste una debole evidenza di cancerogenicità, la IARC la chiama limitata, tra in particolare glioma cerebrale e neurinoma nel nervo acustico, ma questa associazione è detto che sia un rapporto causa-effetto, potrebbe essere dovuta a distorsioni, al caso. I cellulari sono nella categoria 2B, pericolosi quanto i sottaceti e il caffè in pratica. I sottaceti non so dirle, il caffè sì. Cosa bisogna fare per ridurre comunque al minimo il rischio? Esistono dispositivi a viva voce, gli auricolari praticamente annullano l'assorbimento di energia elettromagnetica radiofrequenza utilizzata nelle comunicazioni con i cellulari. E torneremo a parlare di questo argomento alle 13.45 in America 24. Il Fondo Monetario Internazionale non pagherà la prossima tranche di aiuti alla Grecia prevista a fine giugno. Sarebbe questa, secondo il quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung, la conclusione del Fondo Monetario dopo le verifiche fatte dagli ispettori ad Atene, secondo cui la Grecia non è in grado di garantire il finanziamento del proprio debito per i prossimi 12 mesi come richiede il Fondo. Il Fondo invece dovrebbe partecipare al nuovo pacchetto di aiuti da 60-70 miliardi di euro per la Grecia. Come un fado tradizionale, lo state sentendo, ma il testo è dei più moderni. Nel Portogallo, in piena crisi, spopola l'inno contro il precariato di un gruppo di nome Deolinda. Si intitola Parva che sou, che stupida sono. Sono della generazione senza remunerazione, cantano i Deolinda, è già una fortuna poter fare uno stage. Figli, mariti, sto sempre a rinviare, la conclusione è amarissima, quanto è stupido un mondo dove per essere schiavo devi studiare. Confcommercio ha rivisto al ribasso le stime sui consumi degli italiani per il 2011 e per il 2012. La spesa delle famiglie si attesterà a più 0,7% dal più 0,9% previsto a marzo. In calo anche la previsione per il 2012, con i consumi che cresceranno dell'1,2% rispetto all'1,5% previsto a marzo. Sembrava cosa fatta il piano industriale di Intesa San Paolo. L'accordo, anche se sofferto con i sindacati, c'era. Ora spuntano però nuovi numeri, riduzione del costo del lavoro pari a 300 milioni entro il 2014, il che per i sindacati vuol dire altri 2.000 posti di lavoro tagliati. Sentiamo Massimo Masi, segretario Wilca. Un piano dove si diceva 3.000 persone che escono perché hanno diritto alla pensione durante da qui al 2014, 5.000 persone che devono essere riconvertite e il piano doveva essere chiuso in questo modo. E poi si parlava di assunzioni, ma rispetto a questi 3 più 5. E la sorpresa e la mia arrabbiatura deriva proprio da questo fatto, che invece sul piano industriale cosa abbiamo trovato? Sempre i 3.000, i 5.000 più si parla di un risparmio sul costo del personale di 300 milioni di euro fino al 2014. Quindi quindi vuol dire che da lì ci sono altre 2000 persone che sono interessate. Da Intesa dicono che si tratta di una stima interna, non modifica assolutamente quanto vi eravate detti ad aprile. No, è vero, perché siccome loro siamo parte del turnover, allora se io dentro ai 3000, ai 5000 ci metto i 2000 del turnover normale, allora diventa un piano pesante ma trattabile. Se invece loro mi considerano gli ultimi 2000 come turnover, evidentemente la cerchia si allarga. Quindi noi lavoreremo su un bacino di 10.000 persone, che è un numero elevatissimo. E devo dire la verità che anche in questi giorni ho ricevuto telefonate da parte di qualcuno del consiglio di Banca Intesa, perché obiettivamente anche loro è stato presentato in un modo diverso il piano. Ricordate il progetto pilota del ministro della pubblica istruzione Gelmini per valutare gli insegnanti e dare un riconoscimento economico ai più bravi? Qualche mese fa suscitò moltissime polemiche, molte scuole dissero no alla sperimentazione. Fra quelle che invece dissero di sì, l'Istituto Comprensivo Gabelli di Napoli, che ha scelto i suoi 11 migliori insegnanti. Ne abbiamo contattata una, la prof Fortuna Iorio, che insegna da 30 anni italiano ai ragazzi delle medie napoletani. Sicuramente è una bella soddisfazione, ci mancherebbe altro. Ecco, professoressa, lei è una docente speciale a questo punto, no? Oppure è semplicemente una docente che fa il suo dovere come tantissime altre che ce ne sono nella nostra scuola? Sono una docente che fa il suo dovere come tantissime altre che si impegnano in maniera seria e lavorano tra le varie difficoltà di quella che può essere la scuola italiana, quindi sono una come le altre che si impegna, punto. Ovviamente questo riconoscimento economico non le cambierà la vita, però è importante forse, no? Per la sua vita professionale, ma anche per una sua soddisfazione personale. Sicuramente, cioè diciamoci la verità, allora sicuramente non ci cambia la vita, fermo restando che un po' di soldi fanno piacere a tutti, quindi saremmo fuori squadra nel dire che questo non è anche questa una positività. Moltissime scuole si sono rifiutate di far parte di questo progetto pilota, invece la sua scuola ha detto di sì e lei poi è stata anche scelta fra le migliori insegnanti da premiare. Ecco, è la strada giusta secondo lei questa per rimotivare, anche per ridare motivazione a voi insegnanti? Allora, cara signora, chi può dire qual è la strada giusta indipendentemente da tutto? Come tutte le sperimentazioni ha bisogno di modifiche, di ulteriori aggiornamenti. Ovviamente può essere un punto di partenza, ci mancherebbe altro. Molti insegnanti invece dicono non dobbiamo essere valutati. Invece voi non avete avuto paura di essere valutati? Ma io credo che questa sia a prescindere, non è da avere paura o non paura di essere valutati. Credo che il nostro lavoro a prescindere venga valutato tutti i giorni da quelli che sono i ragazzi che vivono con noi. Ed ora a Venezia per la Biennale Arte. Bissare l'impresa di 2 anni fa, quando a Venezia contemporaneamente si inaugurarono Biennale, Punta della Dogana e Fondazione Vedova, sembrava impossibile, ma a volte i miracoli accadono e la 54esima Biennale Arte, che si inaugura sabato prossimo alla presenza del ministro Galan e di 8 capi di Stato, è un'edizione da record. 82 gli artisti invitati ad esporre, dalla curatrice Bice Kuriger, 3 strepitose tele del Tintoretto all'entrata dell'esposizione per ricordarne il tema, illuminazioni. Il padiglione Italia più affollato di sempre, dietro la spinta di Vittorio Sgarbi curatore, 89 padiglioni stranieri, altri 39 eventi collaterali che hanno occupato ogni spazio possibile in città. La macchina del vento, come la chiama il presidente Baratta, ha messo in moto un meccanismo che fa di Venezia il cuore pulsante dell'arte contemporanea mondiale. Ogni museo e istituzione cittadina non ha voluto essere da meno e inaugura proprio in questi giorni le nuove mostre per l'estate. Senza dimenticare Ca' Corner della Regina, storico palazzo del Canal Grande, restaurato dalla Fondazione Prada, che ha ottenuto in cambio di poterci esporre, almeno per una dozzina d'anni, una parte della ragguardevole collezione di Miuccia Prada e Patrizio Bertelli. Perché arte e moda, soprattutto in Laguna, sembrano fare sempre più rima, come dimostra anche la scelta della Maison Vuitton di sostenere le spese di restauro del padiglione Venezia alla Biennale. Un atto certo di mecenatismo che alla città fa bene, senza sottovalutare il ritorno d'immagine. Silva Menetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia. Venezia e Roma destinate a dividersi sempre, anche se questa volta non ci sono attacchi frontali, ma annunci e dichiarazioni indipendenti. Due festival si trovano ancora l'uno contro l'altro. La sorpresa di Roma arriva nel pomeriggio. Sarà il premio Oscar Ennio Morricone il presidente della giuria del festival. Una giuria che all'inizio nemmeno esisteva perché il premio doveva essere solo del pubblico, ma che poi è arrivata come garanzia di qualità, ma anche come occasione di avere personaggi di grande visibilità. E chi più di Morricone? Intanto è stato inaugurato il Ponte della Musica, che unisce la zona dell'Auditorium, sede principe del festival, alla sponda del Tevere di Foro Italico e Monte Mario. Entro l'estate, assicura l'amministrazione capitolina, verrà presentato il progetto di Renzo Piano per il Parco della Musica e delle Arti. È tutto in fieri, ovviamente. Intanto però a Venezia sono sempre più lunghe le ombre del cantiere del Lido. Ancora una volta l'incuria del territorio e le modalità abusive hanno danneggiato qualcuno. Questa volta il danneggiato è il Palazzo del Cinema, ha detto il presidente della Biennale Paolo Baratta. Situazioni di forza maggiore hanno indotto a rivedere il progetto, ha affermato Baratta. In particolare, l'aver scoperto quantità di amianto al di là di ogni possibile e immaginabile preventivo. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questo notiziario, il prossimo alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.